Io non penso che i miei amici mi abbiano tradito. Ho spezzato il mio cuore, ho visto loro piangere per me. Me l'hanno detto, me l'ha detto il vento, una ragazza col grande portamento di un angelo, e in fondo sapevo che la sostanza delle cose stava nel mio dolore. Quelle ore in cui non capivo, non tornavo, non sapevo, e in fondo era tutto rumore. Ora che pacifico ogni senso, tutto trova spazio, tutto trova un senso. Ora che saprei dire, vorrei dire, ho paura a tornare. Non so cosa fare, vorrei te accanto a me, per tornare indietro per questo viaggio immenso. Vorrei te qui accanto a me, per tornare indietro in questo viaggio immenso. Le parole fanno frastuono, un tuono, e quando ero rinato, ero già morto, sepolto, dannato. Vorrei rinascere nel paradiso, nella dannazione ho trovato tanto dolore. Le parole consumano, poi ritornano, divorano, e il mangiare rende più famelico. Il pensiero di essere distante da tutto il mondo, e tutto intorno cambia tutto tondo. La palla gira da un'altra parte, io la passo, nessuno passa a me, e in fondo volevo soltanto un sogno per capire, per giocare meglio le mie carte. Dipingo quadri per dirti solamente che voglio un angolo di eterno nel mio mondo, qualcosa che si confonda con l'immenso, qualcosa che resti profondo dentro al cuore. Tutte quelle ore passate da sole, voglio che svaniscano, ritorna quella presenza di un amico, di una donna, di un gioco e di una gonna. E in fondo, la volta che eravamo da soli, la volta che stavamo bene insieme, non avevamo tutte queste pene, ma il mondo è cambiato molto in fretta, e tutto quanto adesso sembra girare più in fretta, girare più di scatto. Manco la volta che eravamo da soli, stavamo bene, già pensavo a tutte le mie pene. Vorrei te qua a fianco per tornare a volare oltre il confine del cuore, oltre tutto questo odio, entrare nell'amore. Eppure mangio superficie di cicatrici organizzate, mangio parole intatte nella mia mente.